Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, in questo 30 dicembre, quindi per questa trasmissione l'ultima puntata prima del Capodanno, perché poi ci ritroviamo lunedì qui la mattina e anche la prossima settimana, ohimè, da solo e senza il mio compare carissimo Alessandro Milan, che anzi non solo abbraccio a nome vostro, ma gli auguro a distanza, perché ci sente in podcast, gli auguri di buona fine, buon inizio d'anno e un abbraccio triplice per quello che è successo, triplice perché anche sui due bimbi. Lo faccio a nome di tutti voi e sono certo che è così, perché continuate moltissimi a scrivere, grazie, grazie, grazie davvero. Detto questo, allora, oggi è 30 dicembre, si festeggia nel calendario liturgico la Sacra Famiglia, quindi la Madonna, Giuseppe e il figlio. È una festa mobile, perché non sempre cade il 30 dicembre, in realtà dovrebbe cadere la domenica dopo Natale, ma quando Natale viene il di domenica, come quest'anno, allora va a un giorno infrasettimanale. E oltre alla Sacra Famiglia, molti vescovi dei primi secoli della cristianità oggi si ricordano come santi: Sant'Anisio di Tessalonica, mai conosciuto un Anisio, Sant'Egvino idem, Sant'Eugenio, sì, vescovo di Milano, di Eugenio ne conosco, San Giocondo d'Aosta, conosco anche un Giocondo, San Perpetuo, vescovo di Tours, no, conosciuto una Perpetua ma non un Perpetuo, e San Savino di Assisi. Di Savini invece ne ho conosciuti tantissimi. Cosa da ricordare avvenute in questa giornata? Nel 1953 negli Stati Uniti il 30 di dicembre usciva il primo televisore a colori per famiglia. Per l'epoca costava una piccola fortuna, perché costava $1,175 allora, ma insomma sono passati, come vedete, decenni, decenni e decenni. Ricordo che da noi la televisione a colori arrivò più di 20 anni dopo e con un dibattito che spaccò la politica. Ugo La Malfa era contrario, perché diceva che la televisione a colori avrebbe corrotto l'anima degli italiani. Nel 1993, il 30 dicembre, si riconoscono reciprocamente lo Stato di Israele e lo Stato del Vaticano. Era il Vaticano che aveva per decenni preferito evitarlo, e per via delle polemiche ovviamente sui territori occupati, lo status di Gerusalemme, e il Vaticano non ha ancora buttato giù la faccenda. Nel 2006, oggi, l'esecuzione di Saddam Hussein, che era stato condannato in un processo così pochi giorni prima per crimini contro l'umanità. I nati oggi, auguri a Paolo Villaggio, immenso ai miei occhi, davvero un artista straordinario che ha letto il costume italiano gli anni 60, 70 e 80 in maniera impareggiabile. Auguri a Diego Della Valle, auguri a Corrado Passera, auguri a Alessandra Mussolini, cioè una banda un po' eterogenea di italiani famosi che oggi compiono gli anni. Allora, vi dico subito, per telefonare 800 24 00 24, che gli ospiti che avremo tra qualche minuto sono due noti giornalisti coi quali interrogarci sul bilancio politico di questo anno che si chiude in una maniera abbastanza inaspettata rispetto ovviamente fino all'inizio di dicembre, con il referendum che ha cambiato tutto. E però in 4 settimane già si vedono tanti segni, che sono quelli esattamente con cui i quotidiani di oggi, da punti di vista diversi, commentano la conferenza stampa di fine anno tenuta ieri da Gentiloni, che è arrivato solo 2 settimane fa a Palazzo Chigi. E diciamo, i toni sono completamente diversi rispetto a quelli di Renzi. E su questi toni completamente diversi ci sono poi due possibili interpretazioni. Repubblica, per esempio, titola Gentiloni: le riforme da salvare. Allora, attenzione, le riforme da salvare: giustizia, sud, province, lavoro, IRPEF, dipendenti pubblici, ecco i fronti caldi dell'esecutivo. Cioè Repubblica si diffonde a pagina 6. Che cosa vogliono dire? Il sottinteso è che il governo continua, si va a votare per dover tentare di portare a compimento i tanti dossier rimasti aperti, pensate a quello della giustizia, a quello del pubblico impiego da parte del governo. E a fianco c'è un commento di Francesco Merlo: mille sfumature di grigio. Così Paolo Alfredo si capovolge, la famosa formula cinematografica di Paolo il Caldo, mille sfumature di grigio, così Paolo il Freddo ha fermato la giostra renziana. Ecco, quindi Repubblica da questo punto di vista, come vedete, dà una chiave interpretativa molto forte, per così dire, sul fatto che Renzi non ce la farà con grande facilità a imporre lo scioglimento rapido e il re d'azione immediato elettorale, rimanendo nel pieno controllo del partito e dell'agenda governativa, che era evidentemente il punto che si prefissava quando si dimise. Ecco, questa interpretazione non è così altrettanto forte sui diversi giornali, ma tutti notano che con Paolo Gentiloni effettivamente la marcia è un po' cambiata. E qualche segno di cambiamento io ve lo segnalo dai provvedimenti del governo, si vede subito nel milleproroghe, decreto milleproroghe di ieri, oltre naturalmente alla proroga per i 42.000 statali precari, care partite IVA, cari commercialisti che avete anche scioperato a nostra tutela, la promessa riforma del nuovo e oneroso per noi regime, sono partita IVA, sì, e oneroso per noi regime delle comunicazioni trimestrali IVA e dello spesometro, che era stato adottato col decreto fiscale e che il governo Gentiloni proprio si era impegnato a fare con mille proroghe. Naturalmente, care partite IVA, nel mille proroghe non c'è. Ecco, c'è la proroga per gli statali, sono felice, ma l'intervento per le partite IVA invece manca. Secondo segnale, l'arrivo della sindacalista Valeria Fedeli al MIUR, sindacalista della CGIL, produce un immediato risultato. Per chi volesse approfondire, lo trovate in prima pagina sul Corriere della Sera, con il rinvio a un articolo che è a pagina 32 del quotidiano nazionale, nel quale Gian Antonio Stella scrive e riassume così: la buona scuola con la Fedeli finisce in retromarcia, perché cambia la riforma epocale, dice il catenaccio dell'articolo, gli insegnanti trasferiti potranno chiedere subito il rientro, quindi i sindacati trionfanti. Vi ricordo che esiste uno squilibrio strutturale tra numero di insegnanti, e si aggrava ovviamente con quelli messi in ruolo dalla buona scuola e quelli poi con la seconda tornata del concorso, quindi complessivamente 83.000 e dovevano essere 63.000 quelli della seconda ondata, e poi si è fermata un po' per strada la faccenda per via del fatto che diverse centinaia di commissioni di concorso non sono riuscite a svolgere il loro compito di designazione e di esame nei tempi previsti per l'inizio di questo anno scolastico. Ma in ogni caso c'è un forte squilibrio tra insegnanti, molti dei quali vengono dal sud, e il più della domanda da coprire invece delle cattedre che viene dal nord. Come si vede, con la norma della Fedeli si accontentano i sindacati e il problema però si allontana dalla soluzione. Si erano definiti deportati gli assegnati in cattedra, lontano dai luoghi dove per anni avevano esercitato nelle graduatorie GAE, non per colpa loro ma per colpa dello sceno sistema del precariato che era andato avanti per decenni, in cui avevano esercitato le supplenze vicino a casa, nella loro provincia, nella loro regione, e adesso possono chiedere subito la riassegnazione. Giusto o sbagliato? Io dico sbagliato, però del resto il PD ha messo un sindacalista al ministero che non ne sapeva di scuola, esattamente per queste cose qua, visto che ha perso voti al referendum, perché questo è stato l'esame. Poi che altri temi segnalare prima di iniziare il nostro dibattito politico? Io voglio segnalarvi i tre, a mio personalissimo giudizio, di gran lunga migliori articoli e interpretazioni sulla vicenda MPS, che va avanti dopo il fluviale forum del ministro dell'economia che mi ha lasciato totalmente perplesso, pubblicato ieri sul Sole 24 Ore. Oggi vi segnalo tre articoli invece che mi entusiasmano, perché li condivido praticamente dalla prima all'ultima parola. Due di essi sono sul Foglio. Sul Foglio scrivono il professor Sandro Brusco, che insegna a Stony Brook's New York University, e il secondo lo scrive il professor Carlo Alberto Cannavale Maffè, conflitto di interessi, perché un mio compare alla trasmissione del sabato Conti della Belva c'è anche domani mattina, e anche domani mattina alle 10 saremo per farvi un resumé dei temi di maggior impatto economico e finanziario del 2016. Che cosa scrive Sandro Burrusco in sintesi sul Foglio? Scrive: state attenti, perché troppi indizi, e lui si diffonde nel dire quali, lasciano intendere che il governo italiano non ha una grande intenzione di uscire da MPS una volta che vi sarà entrato. Io ricordo tutto che secondo le norme europee questo tipo di intervento pubblico, quello che si adotta in MPS, cioè un aumento di capitale precauzionale per una banca che è sistemica ma è ancora solvente e che non è in grado di superare gli stress test, cioè l'evenienza di capitale aggiuntivo per uno scenario estremo, prevede che infatti l'intervento dello Stato debba essere rigorosamente a tempo. Scrive, secondo me ha ragione, Sandro Brusco, state attenti, perché in realtà la gireranno poi a CDP, diranno che non è più di Stato, ma in realtà resterà di Stato. Io condivido molto questo rischio e questo pericolo, giusto segnalarlo in maniera argomentata e con i toni correttamente equilibrati, come fa Sandro Brusco fin da adesso. Poi invece il secondo articolo, quello di Carlo Alberto Cannavale Maffè, dà una lettura regolatoria di quello che è avvenuto, citando articoli alla mano dello stesso decreto fatto dal governo, ciò che ci lascia molto stupefatti, e il decreto del governo che richiama esplicitamente le norme europee, quelle che poi invece spingono ieri il ministro Padoan a definirsi stupito per i criteri usati dalla vigilanza europea. Ma nel decreto del governo, benedetto ministro, ci sono i richiami delle norme che tu definisci arbitrarie e discrezionali. Quindi questo secondo articolo di Carlo Alberto Cannavale Maffè è altrettanto rigoroso nel richiamare i limiti e i fondamenti giuridici dell'intervento, limiti precisi che lo Stato dovrà darsi in questo aumento di capitale precauzionale. Poi c'è un terzo articolo, quello su Repubblica di Massimo Giannini, condivido anche quello, ed è un articolo che si diffonde sui tanti silenzi e omissioni in cui il dibattito di questi giorni post decreto del governo sembra incorrere su MPS, cioè sembra che la storia non ci sia stata alle nostre spalle, sembra quasi che MPS sia a tappeto per colpa dell'Europa e della vigilanza della BCE. Il direttore del Sole, Roberto Napoletano, scrive oggi un lunghissimo editoriale in cui dice che francesi, tedeschi e spagnoli non hanno i titoli per parlare nei toni in cui parlano del caso MPS. Non lo so, Roberto. Io penso che sia nostro dovere parlare di tutto quello che non ha funzionato in quella banca, della presenza di un partito, della presenza di interessi colludenti e collusivi che ci sono stati, di cosa hanno fatto i regolatori e non hanno fatto i regolatori su questo, come scrive Massimo Giannini. Questione di punti di vista. Oltre a questo blocco di tre articoli su MPS che sono un po' fuori dal mainstream, cioè quelli sulla polemica contro l'Europa come se fosse stati i tedeschi a determinare il caso MPS, vi segnalo altri filoni molto importanti. Sicuramente tutti i quotidiani danno molto spazio, ci aprono il Messaggero, ci apre la Stampa su questo ritorno della guerra fredda che a me lascia molto perplesso. Insomma, l'amministrazione Obama ha fallito la sua politica nel Medio Oriente, grazie alla quale Putin si è conquistato sul campo il diritto di dare le carte in Siria insieme all'Iran e alla Turchia, e questo fallimento è il fallimento, è l'asse portante purtroppo, e lo dico purtroppo, il fallimento dalle rivoluzioni arabe, dal totale cattiva interpretazione e pessimo governo di quello che è avvenuto dopo in tutti i diversi paesi nordafricani e musulmani, e che a tre settimane dalla fine della presidenza e con Trump oramai che è in pratica in carica, espellere 35 agenti russi per la campagna elettorale facendo tornare le cose alla guerra fredda, a me sembra una brutta fine alla presidenza Obama. Questa è la mia opinione, ma ci sono tantissime letture e interpretazioni su questo nei giornali, potete approfondire molto. Io mi limito a ricordare, siccome mi piace molto la Stampa di Maurizio Molinari sui temi internazionali, l'editoriale della Stampa, La pericolosa diplomazia a triangolo, firmato da Stefano Stefanini. E, segnalo ancora su Repubblica un approfondimento che manca negli altri giornali sul dibattito, sul predibattito in corso alla Corte Costituzionale in vista della pronunzia a gennaio della Corte Costituzionale sui tre quesiti su cui la CGIL ha raccolto 3,5 milioni di firme per il referendum, per cambiare il Job Act e per intervenire comunque sui temi del lavoro. Lo sapete, uno è sull'estensione, sul ritorno alla vecchia regola dell'articolo 18, anzi estendendola alle aziende non più con più di 15 dipendenti ma con più di 5 solo dipendenti, uno è sui voucher per abolirli, il terzo è per cambiare le norme del lavoro in materia di appalti. Ebbene, Repubblica anticipa in un bel articolo fondato, da quanto ne so io, perché risulta anche a me, che il dibattito intorno al quesito politicamente più rilevante, quello sul ritorno al passato dell'articolo 18 nella Corte Costituzionale, vede due schieramenti al suo interno. Da una parte chi è per la non ammissibilità del quesito della CGIL, fronte guidato dal giudice costituzionale Giuliano Amato, e dall'altra parte invece chi è favorevole, magari non accogliendo la righetta dei 5 dipendenti invece dei 15, ma per il resto salvando il quesito della CGIL anche sull'articolo 18, ed è un fronte interno alla Corte Costituzionale guidato idealmente, culturalmente, dal giudice costituzionale Silvana Sciarra, che è giuslavorista ed è eletta perdonate, alla Corte Costituzionale in quota PD nel 2014. E Repubblica si occupa anche, con un articolo di Filippo Santelli, della sentenza della Corte di Cassazione, con cui io me ne sono occupato ieri pomeriggio alla versione di Oscar. La Corte di Cassazione ha dato legittimità al licenziamento anche con aziende in bonus che hanno profitti, ma per migliorare la loro situazione questa ragione può essere considerata del tutto legittima come giustificato motivo oggettivo per il licenziamento. Trovate un approfondimento su questo, ripeto, su Repubblica. Ancora su Repubblica vi segnalo un'intervista che invece mi ha lasciato molto perplesso al capo azienda dell'azienda pubblica Rai, Campo Dall'Orto. L'intervista gli ha fatta con Fredo De Marchis, titolo: la politica non mi condiziona, anche con Gentiloni la mia missione non cambia, la RAI deve essere pluralista. Allora, se la sua missione non cambia anche con Gentiloni, vabbè, siete una RAI filogovernativa, perché ti nomina il governo che ha cambiato la norma fondamentale di governo della RAI, caro Campo Dall'Orto, cioè non possiamo far finta di niente. E quanto al pluralismo non mi pronuncio, sono le norme che danno l'imprinting di un'azienda, la norma di governance è quello. Vedo che sparisce qualunque considerazione, e questo mi delude, da Campo Dall'Orto, che io stimo dal punto di vista manageriale e dal punto di vista di innovazione che ha dato alla televisione. Nel mille proroghe c'è la proroga della concessione del contratto di servizio pubblico alla RAI, non è stata detta una sola parola per capire come può cambiare questo contratto di servizio pubblico. Bene, non ce n'è alcuna traccia neanche dall'intervista di Campo Dall'Orto. Mi fermo qui per il momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo con gli ospiti e con le vostre telefonate, perché insieme ai due ospiti, che ve lo dico subito, saranno Antonio Padellaro, fondatore e editorialista del Fatto, e il direttore del Mattino Alessandro Barbano, io chiederò loro che ne pensano di questa fine a sorpresa politica del 2016. Si va a votare prestissimo, oppure Paolo il Freddo Gentiloni, come scrive Repubblica oggi, ci farà votare non prima del 2018, e sentiremo anche come la pensate voi. Intanto pubblicità. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui, tornati in diretta alle 8.36 primi. Alcuni di voi mi hanno segnalato: ma come, insomma, non te ne va mai bene una? No, mi ricredo subito. Sul mille proroghe non c'è, per esempio, l'intervento promesso per le partite IVA, ma c'è una cosa che riconosco volentieri come fondata dal governo: si è evitato l'ennesima proroga delle norme di pensionamento per i magistrati che ricoprono uffici apicali. Era stata più volte prorogata dai governi uscenti sotto scacco del magistratura. Il CSM non ha nominato i vertici di tantissimi uffici apicali proprio per avere l'argomento per poter avere ancora 2 anni in più di versamenti professionali, arrivare a 72 anni, cioè l'esatto opposto. I magistrati non vogliono perdere potere e quindi sono contrari alla riforma all'indietro della Fornero, che vale per gli altri. La Fornero la abbassiamo per gli altri, ma per chi esercita potere invece la voglia di andare in pensione non c'è. E quindi questa era la ragione per cui era stata data anno dopo anno la proroga a chi esercita il potere alla testa degli uffici giudiziari italiani di rimanere dove stavano. Grazie al cielo, con il governo Gentiloni questa proroga invece salta. Cosa positiva, cosa negativa invece? Altra proroga di 4 anni per le concessioni ai venditori ambulanti, che immagino saranno felici, non dico di no, però sulla concorrenza e la liberalizzazione i governi italiani sono sempre così, fanno chiacchiere di anni, di fatto poi prorogano tutto l'esistente. Ecco, non lamentiamoci poi che sia stagnante l'economia, che non ci sia innovazione, eccetera eccetera. Lo dico con il pieno rispetto, sapendo che gli ambulanti saranno felici, però io come osservatore, come italiano, invece no. Ecco, quindi non critico per pregiudizio, riconosco cose positive dal mio punto di vista minoritario e invece critico quelle che secondo me non funzionano. Ecco, è la stessa ragione per cui non riesco a capire come la vicenda MPS, dopo anni di strame fatta dalla politica e di silenzio dei regolatori, possa diventare una vicenda in cui la colpa è dell'Europa. Poi, se siete, molti di voi lo pensano comunque, mi danno addosso, vedo, perché dicono tu sei anti-italiano. Che cacchio c'entra essere anti-italiano? Io sono contro i manager ladri, le acquisizioni a prezzi folli come quella di Anton Veneta e i regolatori che tengono gli occhi chiusi, perché i conti poi li pagate voi, cari contribuenti. Vi piace pagarli? A me no. Questa è la differenza. Allora, andiamo al tema. Per intervenire, il numero di telefono è 800 24 00 24, lanciato con la conferenza stampa di fine anno di Gentiloni ieri. Insomma, la fine coi botti dell'anno politico italiano, perché Renzi non c'è più ed era il dominatore assoluto della politica italiana, e l'interpretazione divisa in due che gli osservatori danno di Gentiloni. Paolo il Freddo, che raffredda quindi tutte le voglie di Renzi, richiamo la cosa di Repubblica per l'ennesima volta di oggi, ma sono molti i giornali che sono su quella linea. Invece, diciamo, i giornali più di destra, più berlusconiani, eccetera eccetera, la mettono un po' diversamente, cioè dipingono un Gentiloni che continua a dire no, io sono come Renzi, il voto non mi fa paura e così via. Per parlarne abbiamo con noi Antonio Padellaro, che ringrazio di essere con noi, fondatore e editorialista del Fatto Quotidiano, ex direttore. Buongiorno Padellaro. Buongiorno Oscar, buongiorno agli ascoltatori. E il direttore del Mattino, Alessandro Barbano, grazie di essere con noi Alessandro. Buongiorno Oscar. Possiamo cominciare con te Alessandro. Tu come la pensi? Sei del partito che Paolo il Freddo butta acqua sulle ansie e le voglie di andare al voto di Renzi e ci fa votare nel 2018 insieme al Quirinale, oppure no? Ma sai, io penso che vada data una lettura non ideologica delle sue parole e non ancorata ai desiderata di chi la commenta. Obiettivamente questo è un governo debole. Ieri Gentiloni è sembrato averne piena consapevolezza e ha avuto, diciamo, una sobrietà forse anche eccessiva, perché comunque rappresentava il governo italiano nella conferenza di fine anno, ponendosi come il sostituto del premier, facendo capire che c'è una piena continuità rispetto all'azione del governo Renzi. E, volendo leggere in maniera logico-letterale quello che ha detto, mi pare che non ho visto una tentazione, diciamo sottintesa, di allontanare le elezioni. Di più, credo che non ci siano le condizioni politiche e la debolezza del governo ne è l'emblema per allontanarle. Certo, c'è un paese che le vuole allontanare, tu hai citato prima la vicenda della scuola, mi pare molto emblematica. Quella che io chiamo una resilienza negativa, la sindrome della mozzarella di bufala. Quando la mozzarella di bufala è molto fresca e tu la percuoti con una forchetta, la mozzarella ritorna nella sua posizione originaria e non si vede neanche il segno della forchetta sulla mozzarella. Metafora campana è proprio una cosa fantastica. Vabbè. Quindi una parte del paese vorrebbe tornare ai dischi di Mille e sta cercando di vanificare la riforma della scuola, che è sicuramente stata fatta con molti punti di criticità, ma che nei principi... Però in sintesi tu dici Gentiloni è abbastanza, secondo te, coerente e corretto nell'essere un rappresentante pro tempore, e quindi insomma alla fine Renzi non si deve preoccupare, è un po' difficile che davvero poi la legislatura possa proseguire, quindi il piano di Renzi può funzionare comunque. Ma per un solo motivo, Renzi comunque dispone di un certo numero di deputati, a un certo punto evidentemente Renzi tornerà dalle vacanze e qualcosa ancora potrà le altre correnti del PD, però più di lui, lui da quel punto di vista non è molto forte, cioè per dirne una, Franceschini c'ha il doppio dei parlamentari, si stima, di quanti non siano renziani della prima ora e fedeli anche oggi. Padellaro come la pensa rispetto a questa interpretazione? Ma guarda, fino a ieri io pensavo che in natura, parlo della natura politica, non esistessero presidenti del Consiglio scaldapoltrone, cioè personaggi che vengono mandati a Palazzo Chigi per tenere calda la poltrona di un altro. Dopo la conferenza stampa di Paolo Gentiloni, persona stimabilissima, attenzione, non ci sono valutazioni sul personaggio, io penso che per la prima volta noi siamo innovatori in Italia, abbiamo creato tante cose, abbiamo creato anche Presidente del Consiglio scalda poltrona, e devo dire che sono anche abbastanza sconcertato da alcuni titoli dei giornali, i toni pacati del Premier. Io non ho mai visto un Presidente del Consiglio che conviene sul fatto che il suo governo deve scadere il prima possibile. Non è, a parte l'aspetto secondo me poco dignitoso politicamente per Gentiloni, ma signori, ma qui abbiamo una Costituzione che è stata riconfermata con un plebiscito pochi giorni fa, abbiamo un Presidente della Repubblica, abbiamo un sistema che comunque ha le sue regole, ma dove sta scritto? Ma chi l'ha detto che siccome Renzi deve a Renzi prudono le mani perché vuole la sua rivincita, bisogna tornare a votare quando vuole lui? Ma ci rendiamo conto, Oscar, tu che sei un fustigatore proprio del metodo dell'Italia alle vongole, ma non è, io ho l'impressione che non ci stiamo rendendo conto dell'assurdità di questa storia. Io avrei voluto un Presidente del Consiglio che, per carità, con i toni pacati, avesse detto: signori, io qui rappresento il popolo italiano, non rappresento Renzi, non rappresento una corrente del Partito Democratico, rappresento gli interessi di questo paese. Se l'interesse primario di questo paese è di arrivare alla fine della legislatura, io, porca miseria, arrivo alla fine della legislatura, perché ci sono delle cose fondamentali da fare. Quindi sono veramente sconcertato da questo metodo, che è il metodo, ripeto, dello scaldapoltrone. Abbiamo innovato anche questo. Io devo dire la verità, sia ad Alessandro Barbano che ad Antonio Padellaro, per la mia, ohimè, sbagliata evidentemente formazione minoritaria, io mi riconosco nelle parole di Antonio Padellaro, perché quando diventa così evidente che l'interpretazione della guida di un governo ha una giustificazione, la giustificazione può essere sempre così politica, ma un'interpretazione da parte di chi è chiamato a guidare il governo politica di partito, e beh, insomma, le istituzioni, come evidente, vanno a farsi benedire. Questa è anche la mia opinione. Io so che ragiono però in termini minoritari, non mi nascondo poi che c'è il realismo della politica e così via. Però in effetti io mi interrogo, ma lo stesso PD la pensa davvero come la pensava Renzi? Quello che abbiamo visto in queste settimane a me pare di no, obiettivamente. Cioè, le marce indietro, caro Alessandro Barbano, le marce indietro sul Jobs Act, le marce indietro sulla scuola e così via, vengono dagli stessi che hanno sostenuto per anni che quello era il nocciolo duro del governo Renzi. Cioè, non è la minoranza del partito che improvvisamente si è impadronita della linea del governo Gentiloni, sono gli stessi, a Barbano, quelli che tu dici la prova della mozzarella di bufala, la resilienza. Allora vuol dire però che lo stato maggiore del PD cambia idea sulle sue idee riformiste, o no, Barbano? Non c'è dubbio, il PD è un partito, diciamo, conservatore, che rappresenta un po' la struttura della società italiana, partito che Renzi ha stressato profondamente e adesso, diciamo, vive una dinamica di adattamento. Però, visto che è stato fatto dal collega Padellaro un richiamo alla volontà popolare e da te in qualche modo confermato, io mi chiedo se il 60% di elettori che al referendum sono andati a bocciare Renzi volevano, e quindi nella loro testa c'era l'idea che si mandava a casa Renzi per avere un bel governo di un anno e mezzo, due anni, del ministro Gentiloni con i ministri che si ritrova. Tu che dici? Io ti dico questo, che la mia risposta è questa qua. Se tu poni la domanda, volete andare a votare qualunque sia la legge elettorale, perché poi a questo punto questo diventa, oppure volete un governo, io non sarei d'accordo, che cambia il Job Act e si torna a un criterio diverso, che cambia la riforma della scuola, eccetera, eccetera, non avrei dubbi su che cosa la maggioranza degli italiani, proprio quella maggioranza del 60%, Alessandro, preferirebbe la seconda, non preferirebbe la prima. Questo però, siamo su livello di interpretazione, a me non tocca, non ho gli argomenti per farlo, non sono un sondaggista, sono un semplice giornalista. Faccio la stessa domanda però ad Antonio Padellaro. È lo stato maggiore del PD che mostra di cambiare idea sull'impostazione fondamentale, che ha condiviso in pieno, i voti in Parlamento li hanno dati loro, mentre un pezzettino del partito criticava in maniera magari incoerente, inconseguente e così via. Però sono loro che stanno cambiando l'impianto di molte cose fondamentali di Renzi. E quindi questo non è un altro segno però che dovrebbe far pensare che forse la legislatura è meno rapida nella morte e nel reddere azione di quanto non si immagini, Antonio? Allora, Renzi nella relazione che ha tenuto all'assemblea del PD di qualche giorno fa ha detto una cosa giusta, ma che è priva di conseguenze. Però ha detto: col referendum abbiamo straperso. Ora io mi permetto sommessamente di dire che se un leader di partito dice, di governo, dice abbiamo straperso, lui se ne deve straandare, perché è evidente che è possibile che non ci sia mai una conseguenza politica. E lui dice me ne sono andato da Presidente del Consiglio. Sì, me ne sono andato, però sono rimasto come leader del Partito Democratico e ho messo Gentiloni, mio fedelissimo, a tenermi appunto calda la poltrona in attesa del mio ritorno. Secondo punto, hai ragione, molte cose di Renzi vengono cambiate, ma vengono cambiate per effetto dei risultati. Io non sono d'accordo sul fatto che gli italiani abbiano votato per andare a nuove elezioni, hanno votato una serie di provvedimenti del governo Renzi che sono stati negativi, percepiti negativamente, e quindi Gentiloni cosa sta facendo? Sta, come si dice, togliendo le castagne dal fuoco. Le banche, ne hai parlato diffusamente. sulle banche il governo Gentiloni che sta cercando di risolvere male, ma certo male o malissimo, scegliamo le due opzioni, gli errori, i ritardi del governo. Hanno fatto finta che non esistesse, hanno messo la polvere e mi è piaciuto sotto il tappeto dicendo ce ne occupiamo dopo il referendum. Secondo, il Jobs Act e la politica e la riforma del lavoro si sta cercando, visto che il no è stato soprattutto un no di giovani che non si sono affatto accontentati delle mini riforme di Renzi, stanno cercando di mettere qua e là qualche pezza. Terzo, la scuola. Evidente che il primo provvedimento di questo ministro, di nuovo ministro sindacalista, è stato quello di, facendo un pasticcio evidente, no? Avanti, indietro, no? Potete la retromarcia, come dice giustamente il Corriere della Sera, gli insegnanti potranno chiedere subito il rientro. Classica riforma all'italiana, cioè si tratta di aggiustamenti che il governo, d'accordo col Partito Democratico e d'accordo con Renzi, sta cercando di mettere per evitare un altro tracollo alle prossime elezioni. È evidente, Oscar, che siamo in campagna elettorale ed è evidente che tutti i provvedimenti che vengono presi dal governo scaldapoltrone sono provvedimenti di carattere elettorale. Per evitare al Partito Democratico di finire di nuovo con un'altra straperdita come quella segnalata da Renzi. Allora, su questi allegrissimi commenti dei nostri due ospiti, il direttore del Mattino Alessandro Barbano e Antonio Padellaro, ex direttore fondatore editorialista, resta ancora del Fatto Quotidiano, io li ringrazio e sobriamente chiudiamo questa parte politica della trasmissione, ma non dopo aver sentito anche voi, perché avete chiamato, almeno alcuni di voi sentiamoli. Raffaella da Trento, Raffaella, prego. Raffaella, sì, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Sì, scusi. Dica pure. Buongiorno. Allora, sì, io volevo un po' ripetere forse i concetti che avete detto in questi ultimi minuti, nel senso che io avevo sostenuto il sì al referendum, sì, pur non essendo sostenitrice di Renzi, neanche grillina, ma avevo sostenuto che votare il sì avrebbe portato a dei cambiamenti. Votare il no, e già si vedeva dalla schiera dei sostenitori del no, avrebbe immobilizzato definitivamente il nostro sistema, e questo si sta verificando. Poi mi permetto di chiedere a Oscar Giannino, che lo sostiene, l'ha fatto anche poco fa, una prece per le partite IVA. Io ho un negozio a Madonna di Campiglio, fra l'altro un negozio appunto stagionale, e quindi anche il voucher per noi è uno strumento fondamentale, perché fuori stagione o teniamo sempre chiusi i negozi, o chi vuol cercare di dare un servizio comunque al cliente e vorrebbe aprire fine settimana ha bisogno di strumenti un po' veloci. Eh sì, Raffaella, perché in quel caso è proprio l'utilizzo di lavoro accessorio stagionale per cui il voucher si giustifica. Però Raffaella, io condivido con lei, ha usato il termine giusto, noi possiamo solo pregare, usare le preci, noi poveri autonomi additati come evasori eccetera eccetera, e a cui aggiungono sempre nuovi oneri e nuovi addebiti, anche aggravi di lavoro per essere in regola col pagamento, perché queste sono le comunicazioni trimestrali IVA. Sentiamo come la pensa, credo però che chiami su altro, chiami sulla vicenda MPS su cui mi sono soffermato, Andrea che ci chiama da Treviso. Andrea, prego. Sì, buongiorno a Giannino e amici di Radio 24. Dicevo solo una cosa, che è ora, perché noi siamo stanchi come comitati Parmalat e come risparmiatori di essere presi in giro, è ora che il governo prenda mano a questa situazione, si prenda a carico il Monte Paschi, risarcisca per 100.000 euro tutti i danni che ha fatto la politica, gli amici di Monte Paschi, perché i tribunali stanno facendo il peggio del peggio. Un tribunale danno ragione a un azionista, l'altro danno torto, e qua è un casino, non se ne viene più fuori. È giusto che il governo prenda carico e prenda rimedio a questa situazione, altrimenti va bene anche la gabbanella, il governo. Non c'è va bene anche la gabbanella. Però Andrea, io le faccio notare, visto che chiama da Treviso, che se c'è una cosa che mi ha lasciato perplesso, ma perplesso nel senso muto, io non voglio dare interpretazione di cose che non capisco, è come il Veneto nel complesso, cioè la sua regione, di fronte a ciò che è avvenuto a Veneto Banca e alla Popolare di Vicenza, noi stiamo parlando più di 10 miliardi di euro, cari ascoltatori, 10 miliardi di euro azzerati come valori agli azionisti di quelle sole due banche. Io credo che di fronte a, mi aspettavo che di fronte a 10 miliardi di euro ci si scatenasse, non dico l'insurrezione popolare, ma dico proteste molto forti nella piena legalità. Tutto sommato proteste limitatissime che si sono viste all'assemblea delle due banche, come se la società veneta nel suo complesso, nei suoi poteri, nella sua rappresentanza di imprese eccetera, sapesse di essere stata connivente, dannatamente connivente, con delle prassi pazzesche nella gestione di quelle due banche. Allora, questo tema è un tema fondamentale, perché Andrea, lei da una parte ha ragione, dall'altra io quando vedo che nel decreto del governo non sarà così, vedrete cari ascoltatori, si tenta di dare il pieno ristoro, la piena conversione al 100 di nominale anche a chi ha comprato sul mercato secondario subordinate MPS pagando 50, mi girano le scatole, perché non c'entra niente con la tutela del risparmiatore, quello è volersi ringraziare la gente per i voti alle elezioni. Allora, distinguiamo, ma vedrete che non sarà così, perché ieri già Montepaschi è stato costretto a una nota in cui dice no, questa roba vedrete che non varrà per tutti. Io ve lo dico, il decreto legge omnibus sulle banche inizia l'esame parlamentare a metà gennaio, quindi poi passano 60 giorni e se li prenderà tutti il Parlamento prima di convertirlo. Dopodiché ci vuole un decreto ad hoc ministeriale del MEF per i criteri precisi di conversione dei bond e per determinare il prezzo del titolo dell'azione, perché tutti vi fate i conti senza ricordare che la complessa formula, l'algoritmo come si suol dire, con un coefficiente particolare determinerà il valore all'avvio, beh, lo sapremo solo con il decreto, questo è il punto, quindi passeranno mesi prima che la faccenda MPS sia definita, non è ancora definita per nulla da questo punto di vista, e quindi io capisco quelli come Andrea che dicono il governo tuteli gli interessi deboli, dall'altra attenzione a non scambiare per tutelare gli interessi deboli, fare i furbi per non aprire delicati capitoli di riflessione su chi ha consentito per anni, cioè i regolatori italiani, che questo fosse l'unico paese avanzato in cui le subordinate si piazzavano alle famiglie, a chi chiedeva un prestito e un mutuo, perché era un canale di funding meno oneroso consentito alle banche piuttosto che vendere quegli stessi titoli ai investitori istituzionali che erano meglio in grado di valutarne i rischi. Ecco, questa roba di dimenticarsi le responsabilità e le connivenze a me pare il grande scandalo bancario. Comunque, detto tutto questo, per attenti a noi due, abbiate da parte mia e di Alessandro Milan, anche a nome suo, di Peter Bescapè, di tutti coloro grazie ai quali questa trasmissione va in onda ogni giorno, un grande abbraccio di fine anno e ci risentiamo qui alle 8:20 puntuali, naturalmente lunedì 2, per fare un bilancio di come avete passato il Capodanno, come l'appuntamento oggi alle 4:30 anche dal pomeriggio.